ci vediamo giorno 18. Abbiamo un po' anche perimetrato i terreni, sia per discutere del primo che del secondo, quindi la buona notizia, c'è un interesse fortissimo da parte di tutti, di tutto il sindacato e dell'impresa, ad arrivare appunto alla definizione di un itinerario che ci porti finalmente a un accordo sindacale. Naturalmente l'obiettivo è di arrivarci abbastanza presto, entro e non oltre il mese di settembre, proprio perché vogliamo godere anche di interventi che a quel punto chiediamo strutturali, di detassazione di tutti i premi di produttività da parte del governo. Quindi abbiamo interesse a fare bene presto, intanto per il nostro compito, ma anche per godere dei sostegni promessi dal governo di taglio delle tasse che esalteranno, rafforzeranno il salario dei lavoratori stessi, insomma. Quindi siamo molto motivati ad andare avanti. No, abbiamo stabilito un itinerario per il 18, iniziamo, ripeto, abbiamo stabilito come facciamo per il primo, il secondo e gli altri. Abbiamo discusso anche di altro, però la cosa principale oggi è la vicenda contrattuale, i tempi che noi vogliamo utilizzare, sintonizzarci al massimo con questa disponibilità che, almeno a parole per adesso, poi vedremo nei fatti, il governo vuole mettere a disposizione questo taglio contrattuale, questo taglio di tasse sulle vicende contrattuali nell'intervento strutturale che intende fare per il prossimo anno. Quindi abbiamo molta fretta.